Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto e un augurio di buone feste da Marta Cagnola. Tornano gli appuntamenti con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. La voce in scena di oggi è quella di una grandissima star italiana amata nel mondo. È nato a Latina nel 1980, incontra la musica fin da piccolissimo, studia chitarra, pianoforte, batteria, entra in un coro gospel. Dopo qualche tentativo andato male e qualche rifiuto, viene lanciato nel 2001 dai produttori Alberto Salerno e Mara Maionchi. Dal suo primo singolo, Perdono, si arriva a oltre 15 milioni di dischi nel mondo, anche in spagnolo, inglese, francese e portoghese. Tour di enorme successo, premi come il Billboard Latin Music Awards, l'MTV Europe Music Awards o il World Music Awards. Alla fine del 2016 ha pubblicato il suo album Il Mestiere della Vita, il primo in studio dopo 5 anni. Eccolo proprio alla presentazione del disco, Tiziano Ferro. Questo disco è un disco che non voglio fare il drammatico, anche se molto spesso lo tendo a farlo, ma è un disco che ho scritto senza pensare che avrei fatto un disco nuovo. È chiaro che dentro di me l'impulso di scrivere e di fare musica non è mai terminato e non sarebbe mai terminato. Ma ho fatto forse un gioco un po' strano, che è stato quello di provare a scrivere come facevo all'inizio, cioè senza pensare che quello che stavo scrivendo sarebbe diventato un disco. L'ho fatto anche senza avere un contratto discografico, perché il mio ultimo disco prima del termine di quel contratto era proprio la raccolta, ma non perché avessi un cattivo rapporto con la mia casa discografica, al contrario, un rapporto bellissimo ero pronto a ricominciare un rapporto con loro, ma non avevo voglia di sentire la fretta della scadenza, che non è pressione, ma è bisogno di capire veramente se quello che stavo facendo mi divertiva ancora come quando avevo 16-17 anni, perché il primo disco l'ho scritto in quella fascia, in quella finestra d'età, e non avevo idea che sarebbe diventato il mio primo disco. Ogni tanto facendo delle cose senza la pressione di dover pensare che sarebbero state delle canzoni che sarebbero finite nel mio disco. Forse mi dicevo, vabbè, queste potrebbero finire sul disco di un esordiente perché sono cose abbastanza complesse, un po' diverse, o forse mi spaventava l'idea che mi stava veramente piacendo quello che stavo facendo. Quindi a un certo punto mi sveglio e trovo questo disco, me lo sono trovato. Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie mi manchi veramente troppo, troppo, troppo ancora. Ho passato tutto il giorno a ricordarti nella canzone che però non ascoltasti. Tanto lo so che con nessuno avrai più riso e pianto come con me. E lo so io, ma anche te. Così 30 anni per amarci proprio. Per me è molto importante per chi ti ascolta capire chi c'è dietro. Perché poi io ho la tendenza a non esserci molto. Cioè, non amo i social network, anzi, usare la parola disprezzo mi sembra un po' esagerata, però diciamo che non ho molto in comune con i social network. Diciamo, il mio carattere non si adegua facilmente alle tempistiche dei social network. Non amo spiegare le canzoni, quindi preferisco essere più chiaro possibile, espormi il più possibile, perché è l'unico modo che conosco per vivere, poi, fondamentalmente, perché ogni volta che ho provato a edulcorare i messaggi, usare una parola per un'altra, non ha mai funzionato, ma nei miei rapporti personali come nella mia vita. Ogni tanto ho fatto dei salti nel buio che hanno funzionato molto più di scelte fatte a tavolino, perché comunque dettati dall'istinto. Queste canzoni sono proprio così, e quindi, però con un atteggiamento un po' più divertito nei confronti di questa scelta. Se questa città non dorme, allora siamo in due. ragazzi di oggi semplicemente caricano un video su YouTube ed è fatta così per alcuni, però poi dopo iniziano a mancare il supporto, la pazienza, la capacità, il mestiere, l'intonazione, il linguaggio, tante cose che se non fai sotto scala, se non fai i club, se non dormi in quintupla, in quadrupla con qualcuno, non hai la pazienza, la voglia, l'umiltà anche di imparare. Io in quel tutto lo vivo in tripla quando andava bene, a volte in quadrupla con gente che non conoscevo, aveva dei nomi tipo Stipuz, Bribo, non so, tutti mi buttavano tipo dentro, avevo 19 anni, non contavo niente e cantavo, mi dicevano che cantavo bene e mi facevano cantare molto in effetti, ma ho vissuto un periodo nel quale ho messo in seria discussione la mia voglia di fare musica perché ero veramente molto timido ed ero molto insicuro ed ero l'ultima ruota del carro, mi trattavano malissimo. Devo dire che se non lo avessi fatto non avrei apprezzato così tanto, come se fosse la prima volta sempre in maniera religiosa, e il fatto di avere questo elenco di date e di poter dire che Roma addirittura è stata doppiata. Nella mia testa, da fan di un concerto, cioè da fan di un artista che va ad un concerto, immagino il concerto a servizio della musica e dello spettatore, quindi non ho mai fatto tour ego riferiti, concettuali, che si allontanano da quello che secondo me è il ruolo dello spettacolo dal vivo, quindi il divertimento, la riflessione, l'intrattenimento, il ricordo, ricollezionare le esperienze tramite le canzoni più famose, più importanti. Questa cosa qui io non ho mai smesso di farla, quindi è chiaro che il tour della raccolta era molto preciso perché c'erano tutti i singoli che avevo pubblicato fino a quel momento. Questa volta ci sarà anche il disco nuovo, però a me piace, mi piace sotto questo punto di vista. Onestamente io non comprendo gli artisti che si propongono, secondo me, questa violenza, che è quella di evitare i pezzi di successo o ridurli a un piccolo medley piuttosto che ad una citazione. Io la trovo una cosa da autolesionisti proprio di livello superiore, perché non c'è niente di più bello, almeno lo posso dire, lo possiamo dire in pochi, perché siamo, non so quanti fanno il mio mestiere, e vi assicuro che stare su quel palco quando le persone ti restituiscono esattamente quel messaggio allo stesso momento in sincrono è una cosa veramente non la puoi descrivere. È emozionante quando sei tra il pubblico, ma è ancora più emozionante quando sei da solo sul palco. Adesso sono certo della differenza tra distanza e lontananza. Sarà che piove da luglio, il mondo che esplode in pianto. Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito, sorrisi soltanto. Per pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio e occhi bendati su un cielo girato di spalle. La pazienza a casa nostra, il coraggio, il tuo conforto ha a che fare con me. È qualcosa che ha a che fare con me. Carmen è la mia cantante preferita, cioè da sempre. Mi ricordo la sua prima esibizione, Sanremo Giovani, addirittura neanche Sanremo, cioè l'anno precedente, le selezioni per entrare a Sanremo. Da lì sono rimasto sempre affascinato da Carmen, perché non so per quale motivo, ma per una serie di suggestioni mie, forse mie sole, e io ho sempre trovato Carmen la vera erede di Mina. Mina è ancora viva, quindi non ha bisogno di eredi, però perché ha quel gusto intoccato per il canto meraviglioso, però istintivo, non è un canto pensato. E poi per la scrittura, eccetera, eccetera. Quando ho scritto Il Conforto mi sono reso conto che avevo in mano una delle canzoni più importanti del mio prossimo capitolo. E allora ho detto, vabbè, senti, se devo provarci, ci provo con una cosa migliore che ho in mano. E lei ha detto sì subito. La cosa che mi ha colpito è che cantiamo quella canzone come due persone che cantano insieme da 20 anni. Perché non volevo evitare tutti i manierismi dei duetti degli ultimi anni. Quindi non volevo che diventasse una rincorsa, adesso mi esagero un po', all'urlo, una rincorsa all'acuto. Non c'è, è una canzone quasi parlata, è una canzone in cui chi c'è esiste perché si chiama Carmen Consoli e dice quella cosa e io mi chiamo così e dico quella cosa. E non è un duetto di facciata, non è un duetto, non so più come dirlo, però ci tenevo che fosse più di contenuto che d'apparenza. Ed è tutto per l'appuntamento di oggi con Voci in Scena insieme a Tiziano Ferro. Ancora un saluto da Marta Cagnola.